prendo una mela, ci ficco i denti dentro, ne stacco un pezzo, la faccio a pezzi nella bocca. Spengo questo schermo, è un paio di giorni che non so, che non capisco che c'è. Sembra domenica, ma non ho idea. Ogni secondo mi sembra un addio, e non c'è un cane per Ivrea. Mi affaccio dall'alto, trovo un giorno di sole che cade sulla strada, che cade là fuori, fuori da me. Tutto è più reale nella finestra, sì, un po' scompare. Sei, dove andrai?